Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Come facciamo a sapere che quello che crediamo di sapere non è solo un sogno? È possibile cambiare il presente intervenendo sul passato? Come possiamo essere veramente sicuri di aver interpretato correttamente le parole e i comportamenti degli altri? Sono alcune delle domande alle quali cerca di dare risposta il libro Stramaledettamente logico, di prossima uscita, nel quale quattro filosofi analizzano il rapporto tra la filosofia e le sceneggiature di film noti al pubblico. Ecco un'anticipazione di come Roberto Casati interpreta dal punto di vista filosofico il film di Harold Ramis Ricomincio da capo. Se ogni giorno ricominciasse uguale al precedente e foste gli unici ad accorgervene, come fareste a sapere quanti giorni sono passati? Non potete fare croci su un calendario, perché il giorno dopo, l'indomani, verrebbero cancellate. Ma, per l'appunto, se ogni giorno si ricomincia veramente da capo, che significato hanno le parole oggi e domani? Come potremmo fare previsioni? Esisterebbero le promesse, le aspettative, i sensi di colpa? Queste domande girano intorno al fattore tempo, che scardina i concetti epistemologici e morali. Ricomincio da capo mostra che l'onniscienza è moralmente insufficiente, in quanto non rende necessariamente migliori. Il punto di vista fuori dal tempo e l'onniscienza sono irrilevanti ai fini morali della nostra esistenza. Non dovremmo accettare consigli e leggi da un Dio. Gli inventori delle religioni sembrano averlo intuito quando hanno creato i miti degli dei fattisi uomini e scesi sulla terra a prodursi in spettacoli strani che attirassero l'attenzione degli umani. Per gli esseri umani, il viaggio alla ricerca della conoscenza è l'unica cosa che sembra veramente poter contare e su cui nessun Dio ha alcunché da insegnare. La conoscenza e persino l'onniscienza possono non aver valore se non nella contingenza delle situazioni. Non basta essere dei e a volte la compagnia di un Dio è noiosa. Anzi, gli esseri umani hanno il privilegio di potersi migliorare ed è questo che li rende così interessanti. Ricomincio da capo ci mostra una situazione che mancava al repertorio delle tragedie classiche. Ci mostra l'epica di un Dio che diventa uomo. Ci mostra l'epica di un Dio che diventa uomo e scopre che da uomini si è infinitamente migliori. Avete ascoltato la lettura di un brano di Roberto Casati dal libro Stramaledettamente logico, esercizi di filosofia su pellicola, a cura di Armando Massarenti e di prossima pubblicazione per La Terza. L'inserto domenica, legato al Sole 24 ore in edicola oggi, ne anticipa alcuni brani. Dal Sud America al Medio Oriente, dall'Africa alla Cina, sono 97 i paesi che vivono all'insegna dell'assolutismo, in un mondo che più che esportare la democrazia sembra voler importare la dittatura. L'ultimo sembra un ragioniere in pensione della Bergamasca, dove era nato suo padre che da bambino gli passò la fede, qualcuno dice anche la sciarpa, dell'Atalanta. Altri tempi. È bastata l'idea di un referendum sull'elezione dell'Assemblea Costituente e un comando di militari incappucciati agli ordini di Roberto Micheletti, strano mix di imprenditore, militare e politico liberale, ha sequestrato il presidente Manuel Zelaya dalla residenza di Tegucigalpa, trasferendolo nell'esilio coatto del Costa Rica. Mentre migliaia di civili affrontavano esercito e francotiratori, la televisione Canal 8 era occupata e la prensa, quotidiano vicino ai golpisti, poteva sparare titoli entusiastici sulla liberazione del paese. Siamo agli inizi dello scorso luglio, lustri dopo il colpo di Stato fallito del 1963, pagato con un lungo esilio negli Stati Uniti, Micheletti è finalmente libero di vendicarsi e coronare il sogno, giurando da presidente dell'Honduras. Con soddisfazione sua e delle multinazionali padrone del 30% del paese, che però non pagano l'acqua, per legge. Paradossalmente, la voce più alta contro Micheletti è stata quella di Hugo Chavez, rumoroso codio della Repubblica di Venezuela, nonché sodale dell'esiliato Zelaya. Teorico dell'homos bolivarianus, improbabile miscela di socialismo e panamericanismo, cioè di sottomissione totale e libertà assoluta, il nazionalizzatore dei giacimenti petroliferi esibisce modi da ufficiale senza dimenticare quelli da gentiluomo. Così, nel suo talk show televisivo «Allo, Presidente», l'Ugo Nazionale avverte da un lato la moglie di prepararsi a fare i conti sessuali al suo ritorno da trionfatore alle elezioni, dall'altro gli squallidi traditori della patria colpevoli di non averlo votato. Milioni di venezuelani, stando ai numeri. Ma i numeri sono un dettaglio anche per Mahmoud Ahmadinejad, il giacchetto khaki più noto al mondo. Anzi, un pulviscolo irrilevante, specialmente se è la polvere cui sono stati ridotti i voti iraniani per arrivare Mossawi alle elezioni di giugno. Anche lì milioni, forse più di 10, di teste da reprimere nel sangue o cancellare come lo Stato di Israele. Del resto, ripeteva il vecchio Stalin che di tirannide masticava, un singolo morto è una tragedia, mentre un milione di morti sono una statistica. Ma the show must go on, e infatti continua col marxismo familista di Fidel Castro, che fa largo ai giovani imponendo il 78enne fratello Raul, e il paleofuturismo di Kim Jong-il, il duce con la permanente che in una Corea del Nord, dove strade, dighe e palazzi vengono realizzati a mani nude da moderni schiavi, colleziona mogli bambine, si sposta in treno per paura dell'aereo e gioca agli esperimenti nucleari, ottenendo grandi attenzioni e fior di sovvenzioni. Sono solo i casi più recenti e nemmeno i più eclatanti dello scivolamento del mondo verso la dittatura. Dall'Africa al Sud America, dall'Asia all'Estremo Oriente, le varianti dell'uomo forte crescono. C'è il modello hard di Moussa Dadis Camara, capo della giunta militare che dal dicembre 2008 insanguina la Guinea. Quello soft di Mswati III dello Swaziland, che veste come i progenitori del paleolitico ma sfreccia su bolidi da 300 cavalli. E quello crossover alla Gurbanguly Berdimuhamedov, il tiranno del Turkmenistan, famoso per il premio alle donne che mettono al mondo 8 figli, $250, e la contemporanea repressione contro le minoranze religiose, bambini inclusi, ovviamente. Il tiranno cerca di ottenere in un modo quello che si può avere solo in un altro, scriveva Pascal, che credeva di individuare l'origine della dittatura antica nelle parole «io sono». Io sono bello, quindi devo piacere. Sono bravo, quindi mi devono riconoscere. Sono buono, quindi mi dovete amare. Oggi però il narcisismo passa sullo sfondo e la tirannide sembra una cosa molto più semplice e grave. La conseguenza di un gioco alle cui regole si fa finta di credere per giocare, ma a cui nessuno crede più da tempo. Il gioco della democrazia. La democrazia è diventata un tale spettacolo che non è possibile prenderla sul serio, ha dichiarato il filosofo sloveno Slavoj Žižek in una recente intervista al mensile Rolling Stone. Sei stupido se lo prendi sul serio. Nello stesso tempo il potere funziona. Tutti si stanno muovendo in questa direzione. Questo sarà il futuro. Non il vecchio stato autoritario, ma questa specie di commedia. Il self-mocking. Scherzi a parte. L'esito disastroso dell'esportazione della democrazia culminata con George W. Bush ha spezzato il legame tra capitalismo e governo del popolo, che prevedeva il ritorno della democrazia anche dopo la tirannide, come dimostra il caso della Cina. Quel legame è sciolto per sempre e la democrazia rappresentativa è ridotta a essere la rappresentazione del capitalismo come scontro di interessi particolari. Uno spettacolo in cui le elezioni sono funzioni mediatiche utili a esercitare il controllo sull'apparato legislativo ed esecutivo dello Stato. È in questo vuoto che prende forma il capitalismo autoritario di Žižek, quello tecnonichilista del sociologo italiano Mauro Magatti, o la versione che il filosofo tedesco Peter Sloterdijk ha chiamato «dai valori asiatici», perché ispirati all'ex primo ministro di Singapore, Lee Kuan Yew, varianti di un'unica tendenza, di un singolare capovolgimento, il bourgeois sul citoyen, gli animal spirits sul common good. Ma una democrazia dove si vince per default, per deficit di opposizione, e si governa barcamenandosi tra populismo e tecnocrazia a colpi di demoralizzazione, è ancora una democrazia? Forse sì. Ma solo se intesa come ideologia, come guscio vuoto dove trionfa l'uomo medio alla Ahmadinejad e Micheletti, che prima raggiunge il potere e poi annuncia «Sono come voi, i miei problemi sono come i vostri, fidatevi di me». Signor sì, presidente, allora? Forse la ragione dell'ascesa planetaria del tiranno sta tutta qui, nella perdita di fascino, nel calo di seduzione della democrazia che tutti continuiamo a sostenere a parole, soltanto perché siamo sicuri che non esista più nei fatti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Walter Mariotti, Signor Sì, Presidente, dal numero 11, settembre 2009, del mensile IL, Intelligence in Lifestyle.